Nessuno di noi, a meno che non sappia cosa fare o lo faccia apposta, perde del tempo e spende del denaro per ciò che è inutile o dannoso. Per un principio genetico, tutti cerchiamo ciò che è utile, buono, vantaggioso, e per questo ci sono persone che dedicano tutta la loro vita a cercare cose preziose. Poiché ciò che è prezioso per uno non necessariamente lo è per un altro, ho pensato di trovare nella eterna parola di Dio le cose che essa dichiara preziose, perché se le dichiara preziose, vuol dire che sono tali. Infatti ci sono persone che per tutta la loro vita hanno ritenute preziose certe cose, per poi scoprire che non lo erano, mentre quando la parola di Dio dichiara una cosa preziosa, con il passare del tempo, si è potuto verificare che effettivamente non solo erano preziose, ma anche indispensabili. Così, molto brevemente, prenderemo in esame alcune cose ritenute preziose da tutti noi. E, se saremo accorti, ne faremo tesoro. Faremo alcune riflessioni in merito alla fede, alle promesse di Dio, alla fede provata, alla sapienza, a Gesù Cristo come pietra angolare, al sangue di Gesù e alla morte dei figli di Dio. 1. La fede. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ricevuto in sorte una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio, e Salvatore Gesù Cristo, 2 Pietro 1:1. Per l'Apostolo Pietro, per i primi cristiani e per tutti coloro che nel corso dei secoli hanno posto fede in Cristo, la loro fede era preziosa. I cristiani sono a conoscenza che nel mondo vi sono tante fedi, ma anche dopo un breve esame si rendono conto di avere una fede dal valore inestimabile perché nessuna religione offre il perdono dei peccati per grazia, mediante un solo atto di fede. Inoltre, nessuna religione può dare la certezza della salvezza come l'opera sostitutoria ed unica di Cristo. Il valore della fede dei cristiani non è soggettivo, cioè non dipende dal fatto che loro hanno creduto, ma oggettivo, cioè perché il valore è proprio dell'oggetto della loro fede. Se io do valore ad una comune pietra, non per questo essa è preziosa, ma se valorizzo un diamante, la mia valutazione è preziosa perché viene valorizzata dal diamante. Così la mia fede in Cristo non è preziosa perché io ho creduto, ma perché Cristo è Dio, perché Egli è il Salvatore del mondo. 2. Le promesse di Dio. Poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci sono donate le preziose e grandissime promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. 2 Pietro 1, 1-4. Ogni giorno siamo bombardati da promesse di politici, di religiosi, commercianti e amici. Alcune sono importanti, altre no. Alcune sono mantenute, altre no. Così, a volte si arriva a non credere più nulla e a nessuno. Esistono però delle promesse preziose e che sono rispettate. Mi riferisco a quelle di Dio. Il loro valore è particolare perché innanzitutto provengono da Lui e poi perché ciò che offrono è di qualità inestimabile e inalterabile nel tempo. Anche se Cristo Gesù non ci avesse fatto delle promesse future quali la vita eterna, esse restano comunque così importanti nella vita quotidiana che varrebbe la pena di crederle solo per questo. Non è dunque colpa di Dio se le persone si trascinano in un'esistenza noiosa e piena di inutili dolori. 3. Una fede provata. Mediante la fede siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. A motivo di questo, voi gioite anche se al presente, per un po' di tempo, dovete essere afflitti da varie prove affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo. 1 Pietro 1, 5-7. Un fede provata è senza prezzo perché rende sicuro chi la possiede. Una cosa è affermare di credere in Gesù, altra è rimanere saldi quando si viene scherniti e oltraggiati perché si è dei cristiani. Qualsiasi cosa che non è stata sottoposta alla prova non ha valore. Quando si è costruito un ponte, è indispensabile metterlo sotto sforzo con un peso oltre la sua portata, altrimenti nessuno potrebbe passarvi sopra. Il ponte ci è, ma non essendo messo alla prova, non offre garanzia. Così, in qualche modo i cristiani sono felici di essere provati, perché tale circostanza dà loro un'importantissima garanzia di avere una fede vera e salda. 4. La sapienza. Beato l'uomo che ha trovato la sapienza e l'uomo che ottiene l'intendimento, poiché il suo guadagno è migliore del guadagno dell'argento e il suo frutto vale più dell'oro fino. Essa è più preziosa delle perle e tutte le cose più deliziose non la possono eguagliare. Proverbi 3, 12-15. Chi legge la parola di Dio si rende conto di quanto essa esalti colui che ha sapienza e conoscenza. E questo è normale. Senza sapienza, senza discernimento, non è possibile vivere e convivere. Non è possibile fare nulla. Senza una certa misura di conoscenza e di discernimento non è possibile essere felici né fare felici gli altri. E poiché la sapienza e il discernimento non sono virtù astratte, ma esse riposano in Cristo Gesù, che è stato fatto da Dio la sapienza degli uomini, trovare la conoscenza significa avere un rapporto intimo e personale con Cristo e dipendere da Lui. Dobbiamo guardarci dall'errore di pensare che la sapienza e Dio siano due cose separate, come pensare che la vita eterna e Cristo Gesù siano distaccate. Esse sono un tutt'uno perché non esiste virtù in questo mondo che non provenga dall'alto. 5. La pietra angolare. Nella scrittura si legge infatti: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare eletta, preziosa, e chi crede in essa non sarà affatto svergognato. 1 Pietro 2,6. Gesù viene paragonato nelle scritture ad una pietra angolare, cioè quella pietra che posta nell'angolo di un edificio ne sostiene due muri. Quest'immagine non costituisce solo un paragone simbolico, ma in effetti è una realtà perché Cristo Gesù è il sostegno di chi ha posto fede in Lui. Togliere Gesù Cristo a un cristiano equivarrebbe a togliergli ogni sicurezza, mentre non si potrebbe affermare lo stesso riguardo a ogni altro religioso. Per un cristiano Gesù è la vita nella propria vita. È il respiro della sua anima, è il principio e il fine della sua vita. La sua vita viene alimentata con un rapporto di preghiera con Lui, viene stimolata ogni giorno dalle sue promesse e dall'amore che ha per il regno di Dio, viene resa gioiosa dalla consapevolezza di appartenere a Dio per l'eternità. E per questo che Gesù Cristo è la pietra angolare e preziosa. 6. Il sangue di Cristo. E se invocate come padre colui che senza favoritismi di persona giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore per tutto il tempo del vostro pellegrinaggio, sapendo che non con cose corruttibili, come argento o d'oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia. 1 Pietro 1,16-19. Morire è una cosa normale. Morire per una causa è meno normale, ma è molto comune soprattutto quando si tratta di combattere per salvare il proprio paese dall'invasore o nell'ambito della propria fede. La morte di Gesù invece non è stata né normale né il risultato di una causa umana. Ancora oggi molti non hanno compreso che Gesù Cristo non è morto perché era un bravo uomo o un profeta, ma perché è Dio. Come Dio, Gesù non aveva nessun interesse a venire sulla terra assumendo un corpo umano, ma lo ha fatto per liberare dalla perdizione eterna tutta la razza umana. Per questo, la sua morte, cioè il suo sangue, è prezioso. Nessun altro sangue, sia umano o di animali, può essere così prezioso. 7. La morte dei credenti. È preziosa agli occhi dell'Eterno la morte dei Suoi santi, Salmo 116, 15. Fino ad ora abbiamo considerato le cose preziose dal punto di vista umano, ma non abbiamo dato uno sguardo in cielo. Se la morte per noi esseri umani è sempre ragione di dolore, per gli increduli è addirittura ragione di disperazione. La morte di qualche caro è sempre una perdita, ma nelle assise dei cieli la morte dei credenti viene considerata un guadagno e preziosa. Et l'eleramil un guadagno perché gotacin qualche aggiunge un'anima al numero di quelle per il quale Gesù Cristo dovrà ritornare sulla terra a regnare. 1000 anni è preziosa, perché per chi ha posto fede in Cristo giunge alla casa del Padre per rimanervi per sempre e per ricevere i preziosi premi promessi. Così ciò che è una perdita è ragione di tristezza, per un figlio di Dio si trasforma in un motivo di gioia perché per Dio la morte dei suoi figli è preziosa. Queste riflessioni hanno lo scopo non tanto di sapere quali sono le cose preziose, ma perché ognuno di noi metta l'impegno dovuto al fine di ottenere le cose preziose. Diversamente, con il nostro comportamento indifferente, mostriamo disprezzo nei confronti dei doni di Dio. E non vi è nulla di più offensivo. Ottobre 2006, Elero.